Dal Vangelo secondo Rice, episodio numero 1, i telegrammi del mare. Di tonni quest'anno ancora non se ne sono visti, è presto. L'acqua è ancora calda, e il vento di maestrale che spinge i pesci verso terra se fa desiderare. Santo buongiorno. La muciara entra renta nel recinto di rete e Rice Mimmo saluta la tonnara. Avanti! Piano! I rematori rallentano la palata. Il capomuciara appoggia un cuscino sul bordo della barca, prende lo specchio, pulisce il vetro con una patata tagliata a metà e lo mette in mare e ci infila la testa e mezzo corpo dentro. L'acqua è limpida. Da dentro lo specchio con l'acqua così chiara riesce a vedere fino a 25 metri e sotto lo specchio scorre il lato di sopravvento e un pesce luna nuota nella corrente, ma niente tonni. Manco un tonno si vede passare, quando invece tutto in una volta da dentro lo specchio il capobarca schizza fuori la testa e grida: un pesce spada! Tempo che si rinfila dentro lo specchio e di nuovo nauterò e ce ne so! E ora anche il pruere, quando il pesce spada passa sotto la barca, lo vede e tutte quante le altre narote che fino a quel momento erano rimasti tranquilli e pacifici s'accominciano ad animare buruide e buciano: eccole qua, ero pesce spada, passaro poro recca. Invece Rice Mimmo annuisce, si accende l'ennesima sigaretta, sorride, si leva il cappello di lana e dice: questi sono telegrammi del mare. Domani arrivano i tonni. I pesci spada spesso camminano coi tonni, ma sono più veloci. Corrono e arrivano prima di loro. Così quando si vedono entrare in tonnara si è tranquilli, perché vuol dire che non ci sono malipisci, i bistini, i veri nemici, dei tonni. Telegrammi che avvertono che stanno arrivando i tonni. Tra qualche giorno qualcuno suonerà le campane per avvertire tutto il paese che i tonni sono arrivati e sarà festa per tutte. Parola di Rice. Da poi ta canna pavena attaccata l'umu saizio, stavolta per de tu ne non c'è scampo. De tonnerò, tacchiana l'unun e là, dopo aver attaccata le so, me le loro varche, e afferrano la rete re du corpo, comì c'ha natterà, re in modo che du vascè, du sempre la fa leva che incasteddate, tiran ancora più fo, te de tonnerò te, ora lo guardate chiuso, e da sotto le tonne comì c'ha un pazzè, re dello scanto, tirà, tacchiano un capolumare, e oramai senza acqua centinaia di tonne femente sbattono l'uno contro l'auto, du mare è in tempesta, si sentono solo le corpi delle tonne, che se cafò danno conto la che di aredda muciara, ne addarrete non c'è più mare, ma solo tonne. Ma non le corche perciò, tentali remi, gile tunna rote ca fu, danno co, per senza pietà, due qua, tottuncini a fè, rano de tu, nella i, san un capo lo vascè, du prima u, no poi là, tu tutte insemmo la te, rano fanno fo, sa du tunno ba, te sba, te da cu, raiuta, no de tunna ro, ta gitta, re l'incapo da va, che du ma, re tutto chi ne russo re sango, e le tunna rote, più fette, l'una cianca alla runta li remigi, a fè, rano la penna re du povero pesce, e te non do tunna all'indietro, pure là, tri tunna rote sono tutte chi ne russo re sango, ma non sentono né cauro né stanchezza né dolore per le corpi delle cure che de tu ne ci cafuddano. E ora, ora, du vasceggio di levante tanto orecchino, che a momenti manco ce la faccio a tenere tutte quante de tunne. E l'ultime tunne se ne rammorrenta all'angolo delle rite, sperando rattuare libertà. E lo sole se riflette dall'occhio ranne tunne, reste moite tunne. C'è ne più ma da allora a nome di Dio e di Gesù domani nauta buonanotte buona soite e buona tonnara. Boh, Sant'Antonino, ora che pronti siamo, mandaci un vento buono e alla mano. Ora che la brezza in poppa fa che continui tesa e non troppa. E da cosse ricenno tase e nesce tutte le oine della chiesa Sant'Antonino. E prima ancora che comincia la giornata dell'accisa fortunata, lo pregano di tunna rote a Sant'Antonino, il buon Sant'Antonino. Che pur a me, quando era ancora picciriddo lungo la strada via mare, il punto mi aiutava a cercare. Buon Sant'Antonino, ora che pronti siamo, mandaci un vento buono alla mano, ora che la brezza in poppa fa che continui tesa e non troppa, e a me che il punto lungo la strada voglio cercare, dammi una mano per poterlo trovare. Perché siamo a giugno, il mese più bello. Ho appena finito la prima media e da poco è passata la tredicina e la mattanza si è appena conclusa. I tonni che si dovevano salvare si sono salvati. Oramai ce l'hanno fatta, non sono incappati nelle reti della tonnara e stanno lasciando la costa. Mentre quelli che dovevano morire sono morti e da tonno si sono trasformati in tunnina. Tunnina! Perché neniace o pisce oramai pescato si chiama così, mentre invece quello che ancora nuota libero in mare, quello invece è ancora tonno. E questo è l'ultimo omaggio che i tonnaroti fanno al loro grande avversario. È passata da poco la tredicina di Sant'Antonino, il 13 giugno, 13 giorni consecutivi durante tutta la pesca dedicati al santo protettore delle tonnare, che fa la fortuna e la felicità dei Rice. Gladioli colorati per lui vengono attaccati all'inizio nelle reti, quando si cala in mare la tonnara, poi quando la pesca finisce le reti vengono tirate su e ancora per miracolo i fiori stanno attaccati. Camanco le correnti ci ponno coi gladioli di Sant'Antonino. Buon Sant'Antonino, ora che ponte siamo, ma dacci un vento buono alla mano, ora che la bezza in poppa fa, che continui te se non troppa. E una volta tutto addobbato di fiori, Sant'Antonino veniva messo a poppa, acchianava in capo la barca, la bastarda veniva messa a poppa e poi usciva e restava con il rais e la ciurma tutti i giorni a mare. E ora ad occupare che a mentre stava in capo da poppa e da vaica, tutta una volta Sant'Antonino cominciava a levitare e levitando cominciava a volare e volava Sant'Antonino in capo lumare e accompagnava di tunni che a piluracqua natavano e piano in piano entravano in capo l'ultima rete della tonnare. Volava Sant'Antonino e a mentre volava tutte tonnarote in capo la vaica che lo varivano e ci facevano: vola Sant'Antonino, vola, vola santo, vola, vola santo, santo, santo, santo, volo, volo, santo, santo, santo, volo. E Sant'Antonino volava, e a mentre volava, e i tunni accompagnava, dopo di tunnarote vuciavano, e a mentre c'erano ste voci, se qualcuno di ste tunnarote mentre vuciava, dopo tutta una volta arrivava una bestemmia, tutta una volta Sant'Antonino a mare scoppava. Che se invece in mezzo a tutto sto vuciare, nuddu bestemmiava, iddu solo con calma, a re, in capo da poppa e da vaica, atterrava. Volo santo, volo, volo santo, santo, santo, santo volo. O ritorno di tunnarote supigliavano un mazza e supittavano un processione. E tutto questo per 13 giorni consecutivi, la tredicina di Sant'Antonino. Ma ora come dice Rais Mimmo, l'epica canciao. E non lo si può te più in processione rintra a chiesa. Ma iddo Sant'Antonino o sape che i tunnarote ci vanno sempre bene e un sava arrabbiare se lo lasciano da dentro inchiuso, anche perché tanto i santi un s'affennano. Parola del Rais. Dal Vangelo secondo Rais, episodio numero 2, la Taunara. A ponente, mentre tutto sembra calmo, appare una tromba marina. Talia! La Taunara c'è! Gridano sulla bastarda. La Taunara corre veloce e i tonnaroti più vecchi si fanno il segno della croce e la tromba marina sembra ancora di più avvicinarsi e c'è scante e paura tra tutte tonnarote quando improvvisamente sulla bastarda un anziano pescatore tira dalla tasca un coltello a serramanico, lo apre, si rivolge alla Taunara e fa degli ampi gesti con la mano armata. Putenza di lo pate, sapienza di lo figlio e per lo nome Maria sta cura tagliata sia. Dopo qualche secondo la tromba d'aria miracolosamente scomparsa. Il mare ora non fa più paura. Parola del Rais. Episodio numero 3. La palma. Il Rais dice le sue preghiere in silenzio. Poi la muciara si dirige veloce verso lo spicu, dove la coda si attacca alla tonnara. E qui i cavi di sommo formano una grossa croce. I tonnaroti legano strettamente i legni incrociati che stanno alla base del palo e ai cavi di sommo, e poi coi tiranti di nylon mettono in piedi il palo, che da oggi in mare a largo resterà dritto. C'è una croce sulla sommità del palo, con tanti santini attaccati. Questa è la palma. È l'entrata in mare della tonnara. Noi la chiamiamo così per i rami che ci mettiamo in punta. Ci attacchiamo tutte le immagini dei nostri santi che a noi ci aiutano. E quando passiamo di qua, sempre la croce ci facciamo e loro lo sanno. Parola del Rais. E a me e a me mi pare ancora di sentirlo. Da poco è passata la tredicina e la mattanza si è appena conclusa, e in questo periodo dell'anno la tonnara va a pieno regime, là dentro lavorano notte e giorno, lavorano e cuociono il tonno in continuazione, e a me mi pare ancora di sentirlo. Mentre percorro in macchina tutta la strada via mare che va da Trapani a Cornino all'altezza di Bonagia, ce l'ho ancora qua, sotto il naso. L'odore forte, aspro e acido del tonno cotto e lavorato che usciva fuori della tonnara di Bonagia era sempre così su quella strada. Prima sentivi l'odore del tonno e poi qualche centinaio di metri più avanti sentivi quello delle alghe morte che stagnavano sulla riva del porticciolo. Maria! Chi puzza di alghe morte? Facevano le mie zie. Chisto è usciauro do tunno bollito, o fetore laighe moite viene dopo, ci rispondeva mio padre. E mi statevi zitti, che così mi svelate il punto. Buon Sant'Antonino, ora che pronti siamo, mandaci un vento buono alla mano, ora che la brezza in poppa fa che continui tesa e non troppa, e a me che il punto lungo la strada via mare voglio cercare, dammi una mano per poterlo trovare. Perché oramai gli odori si confondevano e io che stavo dietro seduto in macchina facevo il tratto di strada ad occhi chiusi e dovevo capire ad intuito a che punto della strada ci trovavamo, e l'odore del tonno e quello delle alghe morte mi indicavano sempre il punto giusto. Aprivo gli occhi e tac, ci trovavamo proprio là, nel punto che avevo pensato. Tutti la consideravano come puzza, sentivano feto, addirittura s'attuppavano un naso punzentela, ma io no. A me mi è sempre piaciuto l'odore del tonno che si mischiava a quello delle alghe, prima perché mi faceva pensare alle storie di mare, e poi perché mi faceva giocare a cercare il punto, e poi soprattutto perché mi faceva pensare ai tonni giganti blu e argentati che nuotano veloci nel fondo dell'acqua. Salanitro, ligno fraricio, piciniura e munnizza di mare, odori e colori che si ammiscano sotto il sole giallo e cocente, che ha scolorito il colore nero della pesce sulle barche, l'ultime muciare, lasciate tutte doca abbandonate e disciutte in mezzo alla sabbia, in mezzo a tutta la munnizza di mare portata dalla risacca dal mare, doca e tate doca tutte disciutte abbandonate, in mezzo alle ancore nere tutte arrugginute, un mai piccò e paro salanitro. Munnizza di mare, quando era nico giocava sempre in mezzo a munnizza di mare, e poi arrivato in casa mi aveva a sentire tutto il buidello che faceva mia madre. Ma non è stato tutto lo decchino di pesce, se salanicio, ligno fradicio e munnizza di mare, mi pare ancora di sentirlo, o mi posso squiddare più, giocavo così. Le... cosiddette tonnare volanti, dopo aver localizzato dall'alto con gli aerei banchi di migliaia di tonni che attraversano le acque calde del Mediterraneo, i pescherecci super tecnologizzati, dotati di una strumentazione degna di un conflitto navale, capare cavessere a ghiera bomba e dare una poetta aeree, circondano con delle enormi reti volanti tonni al largo del mare e li dirigono dentro queste gabbie d'allevamento marine. Le cosiddette mangianze, un colpo e via, dentro queste gabbie marine d'allevamento li tengono lì dentro e gli danno da mangiare pesce azzurro congelato a mai finire, saidina la cianciove, una vera e propria abbuffata, la grande abbuffata per i tonni in gabbia, un colpo di fucile in testa e via, il sommozzatore tiene fermo il tonno per consentire al fuciliere di spappolargli con un solo preciso colpo il cervello, e il Rowling calibro 12 ha preso il posto dei corchi dei tonnaroti, tonnaroto galeoto, e le mistiche cialome tacciono in silenzio per lasciare spazio al rumore sordo dei proiettili blindati che spappolano con un solo preciso colpo il cervello dei tonni e le scagliano le ossa al cielo, e poi vuoi mettere il tonno con un colpo di fucile in testa non soffre, mentre con la mattanza, poverino, che strazio, tutto sto sangue peggio della corrida, e stum, un colpo di fucile in testa e via, e il tonno ora bello grasso, ingabbiato e allevato, è pronto per partire verso i grandi mercati ittici giapponesi, pronto per essere venduto all'asta e per soddisfare gli appassionati di sushi, che alla gente il sushi ci piace, è buono il pesce crudo, noi veramente ancora non ci siamo tanto abituati, però va essere particolare, no, il pesce crudo mi fa senso, però forse piano piano ti puoi pure abituare, magari, che fa, ogni tanto in qualche giappo non ce vai, ma non ne vai, che ci vai a fare in queste isole? Non vedi che dopo ogni estate oramai pure tutto l'anno muoiono tutti anneati i niuri e i tuicchi? Che ci vai a fare in queste isole che c'è un mare tutto chino rimotto anneate? Ognuno a mangiare un ristorante dopo un tastisole, sai, che verranno a mangiare tutti i pesci, che si mangiano tutti i niuri e tu che anneate a mare, ma onne vai le mangianze, coi suoi bordi galleggianti, dove stanno ingabbiati belli e grassi i tonni che mangiano, sono gli stessi bordi di vasche marine dove stanno appesi i clandestini delle ultime ore che come i tonni non hanno scelto di andarci lì, ma ce li hanno lasciati apposta, costretti a condividere con i tonni questa penosa condizione di prede, e hanno deciso come i tonni di attraversare le acque del Mediterraneo, i tonni per riprodursi e gli uomini per un futuro migliore, migrazioni di uomini e tonni che attraversano le acque calde del Mediterraneo e incrociano le loro traiettorie in un comune e sfortunato destino, quello dei tonni nei grandi mercati ittici dove vanno a finire all'asta, e infine quello umano dei traffici e delle tratte degli schiavi del nuovo millennio, clandestini e tonni mischini. Non ne vai, che ci vai a fare in queste isole? Lago nostro, pregano e ringraziano i tonni. Grazie per il cibo quotidiano che ci dai. Lago nostro, pregano e ringraziano i tonni. Clandestini e tonni meschini. Dallo sguardo dall'alto verso il basso, l'occhio buono del tonno, tondo e sazio, guarda l'occhio sperduto e digiuno del clandestino meschino ettato sopra sti bordi di vasche marine. Sono gli occhi delle mangianze che si incontrano e si scontrano, si guardano e aspettano, e mentre si raccontano. La notte è passata, e già l'alba è spuntata, e senza manco un filo di vento, l'acqua ora è come una tavola, oggio pare. E d'autunno affiora a galla, e si vira sto meschino, mezzo stoidute e senza forze, ittato doco, buttato in capo sti bordi di vasche marine, sti galleggianti, che dorme. Quasi la ruspiglia d'autunno, come a dire ci sei preso. E tu ca, che ce fai? Chi sta manco è ora di poittare a mangiare? Che poi manco se tu chi do che ne poittare a mangiare, ma tu ca, che ci fai? Contami. E allora a Yusuf, a Sad, a Mohammed, a Mambai, chiamatelo come volete, ci pare di sognare. In quest'alba appena spuntata, e tato dogo col sole cava ancora a spuntare, ma con la luce mattutina che già sale e che si riflette sull'acqua che leggera sbatte e rimbomba contro ste borde di galleggiante marini. E dopo si vira a pirurà sto tunno gigante con l'occhi tondi e buoni che affiora. E l'utalia. E comincia a contare questa storia. Un ciafazzo chiù. Ave recioine decinotte che ferriamo e galleggiamo mare senza sapere chiù né per como e né per chi. Un ciafazzo chiù. Quanto è vero Dio, appena metto per in terra ne voglio più sentire né di ciauro né di scruscio di mare. Giuro che appena metto per in terra me ne vai un capo un pizzolo in una montagna. Un ciafazzo chiù, ave decioine decinotte che ferriamo e galleggiamo mare in mezzo a st'acqua salata. Ca se chesso mi paresse un sogno e un pensasse ca fosse un miracolo, manco mi venisse ricontare te, l'un ciafazzo chiù. A pensare a tutto sto viaggio e a tutta sta deriva. T'affigurare che tutta la contentezza è la festa di quando paettemo un capo di da spiaggia ne passao. Tanta era la festa che quando eravamo contenti di paettere lassamo sopra la spiaggia e manco ne poittamo un capo la barca nell'acqua né mangiare da più bere e più mangiare. Tanta era la contentezza e tanta era la gioia. Tanta era sta gioia che manco ne faceva più pensare ai ricordi più brutti di tutto l'ultimo periodo, tipo lo deserto. 42 eravamo un capo da macchina scaettellata, mascolo e femmina ammassate l'uno con l'altro, senza manco un momento di intimità, come l'animale. Manco per ghiro bagno si faceva dopo in mezzo alla sabbia cocente che ghittava fuoco di tutte late. Solo che giusto se ci pensi, chisto e niente risoppoittare in confronto a quello che vedevamo dopo un capo da sabbia, che quando passavamo veriamo tutti i corpi di chi di prima rinati che erano state passate dopo, che erano state lasciate o sapendo per quale mala questione era trafficando per chi si ci aveva rotto motore, erano scheletri consumati e abbruciati rosule. Ma nel momento che fai, giustamente pensa solo a restare vivo, allora pensava se sopravvivo vuol dire che Dio mi ha perdonato, che lasciava a mia moglie e i miei figli in casa e vuole che arrivo sano e salvo in Sicilia e una volta arrivato dopo me li poetto pure a Ede, inshallah. 36 ore, al massimo un giorno di navigazione e sarete tranquillamente in Sicilia. Puntate a nord e poi a nord-ovest, cacce a bussola e qualche tanica di benzina. E mi raccomando, niente dietro front. Ci sono i timonieri e guidano loro. T. timoniere, capito? Gente che si affetta di guidare la vaica gratis per fare il suo viaggio. Gente che manco sape come è fatto un motore di vaica. Timonieri che sono armati di pistole e cutelli dai trafficanti per mantenere l'ordine in capo da baicca, perché se c'è qualcuno che tenta di liberare, allora i deluminacciano, che poi sempre in capo una vecchia china di cristiani in mezzo mare, sì, e manco ti puoi muovere troppo facilmente, perché c'è un rischio di accappottare e scuppare tutte quante a mare con gente che manco sape natare 36 ore e sarete tranquillamente in Sicilia manco 30 ore e due motori di vaicca si rompe. E ora restiamo doca a ferriare mare trascinate dalle correnti giorni e notti, notti e giorni, i giorni cusule e la calura insopportabile, le notti col freddo e l'umidità terribile. Piano piano la gente comincia sempre a addormentarsi di più, in un sonno sempre più lungo. E poi dopo sonno passano alla morte, la gente comincia a morire, ma quelli che di noi ancora siamo vivi, facciamo finta di pensare che dormono ancora. Sbarazzarsi dai corpi dei morti tra lo strazio dei parenti che diventa cosa normale e altra gente che comincia a avere deliri dopo un mezzo mare, che berrono l'ave in lontananza e si buttano a mare e cominciano a natare, che dice torniamo presto ma io non ne vitti più. E poi negli ultimi giorni di navigazione chi viene trovato morto prima che cala la notte rimane a bordo, perché ci copriamo coi corpi dei morti per ripararci dal freddo della notte. Gli ultimi giorni ci rimane solo il sonno. E io mi tengo i pugni dello stomaco stretti e spingo all'indietro, dentro, che mi serve come a sentire che c'ho lo stomaco un poco pieno. E poi mango, succo di mango. Sotto l'albero del giardino di casa mia bevo succo di mango. Questo sogno mi disseta. Ed è questo sogno che fino ad ora mi ha salvato, da che mi sono svegliato dall'urto del rumore della barca contro sti bordi di galleggiante marine. Allora io con questi tre miei compagni che siamo rimasti vivi siamo saliti qui sopra e piano piano la barca trascinata dalle correnti si è allontanata, ma noi qua quantomeno non siamo alla deriva. E allora aspettiamo quelli che ti portano di mangiare e poi magari chiediamo aiuto, inshallah. E il tonno gigante, dagli occhi tondi e buoni, se l'è ascoltata tutta sta storia. È rimasto lì a sentire Silla e a immaginare Silla tutta. Certo che c'hai una storia veramente bella triste tu, eh? Ma non ti preoccupare che ora ti conto io una storia più felice. Perché tu non devi pensare che noi ci troviamo qui ingabbiati dentro sta gabbia chissà da quanto tempo. Prima di trovarmi dentro sta gabbia, senza spazio e senza mura, io di tornare di quelle antiche assai me ne sono fatte, 3 per la precisione. E tutte le volte, prima che succedeva la mattanza, sono sempre riuscito a scappare e a trovare la libertà. Perché a mente che nuotavo, cercavo e trovavo di notte, in mezzo alle reti, un buco che si era venuto a formare e passava di suo buco e trovava sempre la libertà. Per 3 volte. E quindi di cose assai ne ho viste. Notti e giorni passati tra le immense reti calate dai Rice e dai suoi tonnaroti. Ma giusto giusto, la cosa che mi è rimasta più impressa è una cosa che succedeva fuori dell'acqua. Tutte le volte che tonnaroto subacqueo finiva di fare il suo giro di perlustrazione in mezzo alle reti da sotto l'acqua per controllare appunto se c'erano buchi nella rete o per tirare se a qualcuno di noi tonni ammaiato durante la notte, appena chisto saliva sopra dell'acqua, tutte le altre tonnarote ci cominciavano a dirci di raccontarci e di raccontarci quello che lui aveva visto sott'acqua. E allora, a mente lui, si levava il sopra della muta che era rimasto solo col sotto, un capo la muciara da al centro del quadrato con tutte le altre tunnarote che ci vociavano «Amuni, fo, e zanana, contane le tunne gigante e gentate sotto l'acqua, forza!» E allora Nanae, che era sopra la muciara dopo, si cominciava a preparare, e a mentre si preparava, intanto da lontano si vede il volo basso dei martinazzi, gli uccelli del mare che volano a pelo d'acqua insieme ad altri tonni che stanno per entrare in tonnara. E mentre Nanae ora è pronto sulla muciara lì a poppa, circondato da tutti i tonnaroti, mentre che sta per cominciare, intanto il librare di una farfalla gialla e nera che porta buone nuove accompagna il conto di Nanae, che comincia: «Tonnarote galeote, allora sentita mia, e berete so cucciere virre, e sentite so cucciere sentere. Ora mentre che mi trovava da sutta l'acqua, in mezzo a tutti i tonni che natavano, tutta una volta un merevanente e tutta una volta le vitte. Eccole finalmente, prima 10, poi 30, 100 e altre ancora, in un turbinio di pinne e code, e pance lucide e dorsi azzurri. I tonni sott'acqua non hanno paura degli uomini, ma gli vanno incontro, gli girano attorno vorticosamente, li guardano con gli occhi piccoli e buoni che sembra quasi che stiano per investirli a tutta velocità, quando all'ultimo momento alzano le pinne incassate nel corpo e frenano, virano, cabrano, affondano e girano, girano, girano lungo le reti della tonnara senza mangiare e senza fermarsi mai. Ogni tanto un tonno tocca la rete e rimane ammagliato. Il buio della notte e la frenesia gli sono stati fatali. Sembra un animale in croce, sospreso tra il blu del fondale marino, e la processione dei compagni gli passa accanto mille volte sfiorandolo. Ma per i tonni non è come per il pesce spada che rimane accanto al compagno morto ammagliato nelle reti, difendendolo e attaccando chi si avvicina. No, i tonni continuano il loro giro tondo continuo lungo le reti della tonnara e girano, girano, girano senza pensare ad altro che a fare l'amore. Un mare di tonni nel blu dell'acqua che ora si trasforma nell'argento di mille corpi. E allora io vedo i tonni surriare, li vedo fare l'amore girando l'uno accanto all'altro. All'improvviso due tonni schizzano velocissimi, si strofinano pancia su pancia, surriano e fanno l'amore, mentre il sole penetra nell'acqua e si riflette su quelle surre pance gonfie e lucide come fossero specchi. Intanto le gonadi cominciano a svuotarsi, il maschio e spelle il suo lattume che va a fecondare le uova rilasciate dalla femmina. Altri due tonni schizzano velocissimi, surriano, si strofinano pancia con pancia e di nuovo fanno l'amore. Due tonni, due colpi di coda e via, di nuovo all'unisono velocissimi, surriano e fanno l'amore. Come avranno fatto a partire nello stesso istante io non lo so. Due colpi di coda e via, di nuovo surriano, strofinano le loro pance e fanno l'amore. Quale voce segreta li ha resi complici? È il più grande e romantico mistero della natura marina. Due colpi di coda e via, i tonni surriano, strofinano le loro pance e fanno l'amore lungo le reti che ne restringono l'orizzonte, lungo le reti che strangoleranno quelli che non faranno in tempo ad essere sfregiati dai corchi dei tonnaroti. I tonni prima di morire fanno l'amore. Bravo. Bravo Nanae, bravo. Amore, picciotte, facciamo la tonnina che spara, picciotte. Amore, facciamo la tonnina che spara. Di quando eravamo piccirid, che ce ne andavamo tutti quanti, bambini 12-13 anni, alla tonnara di San Giuliano, che già era tutta distrutta e abbandonata, e dopo camminavamo in capo agli scogli, e arrivati nel punto più alto degli scogli cominciavamo a buttare i tuffi, capuzzuna, e nettavamo tutti quanti, prima a uno e poi tutti insieme, nettavamo dopo e facevamo i capuzzuna, quei che settava a bomba, quei che settava a chiova, a piscia, all'anciulido, e nettavamo prima a uno, poi tutti quanti, e arrivati tutti in tallocco cominciavamo a fare la tonnina che spara, amone picciotte facciamo la tonnina che spara, amone picciotte facciamo la tonnina che spara, tonnina che spara, tonnina che spara, cominciamo a sbattere mani e perre all'acqua e facevamo tutta sta ranna e scumazza bianca come quando le tonne sono chiuse in la camera della morte e le tirano a perù l'acqua e sbattono tra idde e fanno tutta sta ranna e scumazza bianca. Ora in arredocamente che ghittavamo i capuzzoni ai tuffi, stavamo tutti quanti all'acqua e sbattevamo e facevamo tutta sta ranna e scumazza bianca. Amone picciotte facciamo tonnina che spara, tonnina che spara, tonnina, tonnina, tonnina, tonnina, tonnina, a tonnina. A ventesca, o tarantella, buzzonaglia, l'ovretunno, o pulmonedda, fecazza. Tutte cose. Ne altre ne mangiamo rotunno. Stan passando i tonni saporiti e gradevoli al palato, per la nobiltà del ventre. La luna è alta nel cielo. Tra un poco arriveranno i tonni panciuti. Al solstizio di giugno i tonni compiono il loro viaggio nuziale. Che io li sposerei, tonni che prima di morire fanno l'amore. Celebrerei per loro un vero e proprio matrimonio sull'altare della chiesa. Mi vestirei tutto bello pulito ca camicia strata e celebrerei per loro questo matrimonio. Tu, tonno maschio, vuoi prendere come tua tonna moglie la qui presente? E tu, tonna femmina, vuoi prendere come qui presente il tuo tonno maschio come sposo? Sì, lo voglio, vi dichiaro tonno marito e tonna moglie. Li sposerei dentro quella che una volta era la chiesa, la chiesetta della tonnara di San Giuliano, che come ora la tonnara è completamente abbandonata e distrutta. Dentro la chiesetta della tonnara di San Giuliano, che così la descrive padre Benigno Agostiniano Scalzo, nato nel 1743 e morto nel 1815, nel suo Trapani Sacra, capitolo 9, paragrafo 11, delle chiese minori. Dentro la tonnara, sotto il titolo di San Giuliano, distante poco più di un miglio da Trapani, vi è la chiesa dedicata ad esso martire. Nell'altare di essa chiesa vi è la statuetta di marmo rappresentante San Giuliano d'armi bianche. Nei due mesi di maggio e giugno, nei quali si fa la pesca dei tonni e molta ciurma vi risiede, nelle case della tonnara la detta chiesa viene molto coltivata, perché il cappellano giornalmente vi celebra la santa messa e la sera raccoglie tutta la gente per ivi recitarsi il Santissimo Rosario. Perché domani s'ava a fare visita alla tonnara e speriamo che chi na ripisce, e allora stasera s'ava a pregare buono. Dal Vangelo secondo Rais, episodio 4, Sfax. Rais Mimmo è in piedi a poppa sulla muciara, guarda al largo. Un peschereccio con a bordo pescatori tunisini passa vicino la tonnara. Sicuramente arriva da Mazara, strano però che passi da queste parti. Rais Mimmo non si sa dare una spiegazione. Poi comincia. Una volta l'immigrazione era al contrario. Eravamo in altri pescatura trapanisi che ghiamo a travagliare in Africa. A 14 anni mi ricordo che mio padre mi portò con lui a Sfax in Tunisia come mozzo. Andavamo lì a raccogliere le spugne. Si partiva da Trapani con la barca a vela Grazia Velata a settembre e tornavamo a febbraio. Una volta ci impiegammo per arrivare da Trapani a Sfax 26 ore, mentre un'altra volta per tornare 14 giorni. Era a seconda ruvento. All'andata trovavamo gregale in poppa e ammuttavamo come coi nudo. O ritorno capitava a scirocco e allora capitava che navigavamo a ridossare vicino Capobon in Tunisia. Si navigava giustamente solo a vista, a bussola. E poi arrivate lungo le secche di Sfax cominciavamo a pescare le migliori spugne. Con gli anni infatti di astaiolo poi sono diventato uno dei migliori di pescatori di spugne. Insomma, una volta era così, c'era l'immigrazione o contrario. Perché iddo o cuscus ripisce in Giappone perché si fa? Perché i pescatori giapponesi che avevano visto in Tunisia che cucinavano sta semola con la carne però. E siccome tanto invece la carne in Giappone costava cara, mentre di pesce ce n'era in abbondanza, i cristiani che facevano? Vedevano tutto sto pesce che veniva buttato in mezzo alla strada, perché tanto c'erano i cristiani che carrettedde a mano, che mica c'avevano ghiaccio, che vendevano tutto sto pesce. Allora alla fine della giornata che ci rimaneva tutto sto pesce, piglia e lo buttavano in mezzo alla strada. Le donne giapponesi di una volta che hanno detto: ma perché lo dobbiamo buttare sto pesce? Usiamolo e facciamoci il brodo. E così è nato il couscous di pesce in Giappone. Zitrin, Gera, Marsagua, Sidi Benur. E dunque ci insegnavo all'arabi in Libia a calare le tonnare. Il rice giapponese. Il più famoso di questi rice di Giappone che andò in Libia lo chiamavano rice giotto. Tanto era preciso nel calare il rete in mare che pareva che ci faceva un disegno geometrico preciso dall'acqua. Insomma, era così una volta. C'era scambio. E quando c'è scambio, potesse morire che ci fosse tutto. Parola del rice. Episodio numero 5. La super tonnara. E poi c'è l'impresa. Rice Mimmo guarda al largo verso il mare. Sempre più lontano dalla costa sta pensando e sognando ad occhi aperti. Sta pensando al grande sogno. Riuscire a portare la tonnara ancora più fuori, là, dove nessuno ha mai osato, dove le correnti e le profondità del mare sono impossibili, dove i tonni percorrono un canalone profondo 100 metri pieno di mangiare. La siccafora è là, lo aspetta, e lui la guarda. Il suo amico di sempre, il vecchio proprietario, prima di morire gli aveva chiesto di provarci, di calare le reti là ancora più lontano, ma ormai è solo. Forse prima assieme ce l'avessimo pure potuta fare, ma oramai sogno vecchio, non c'ho l'età. Ma ricordatevi che qua abbrazza mare, abbrazza pesce, e allora se poi nesce. Parola del rice. Ultimo episodio. L'aglio della giovinezza. Questo è l'ultimo anno. Dall'anno prossimo la tonnara non verrà più calata. La concorrenza con le tonnare volanti è troppo forte, e poi, come dice Rice Mimmo, oramai troppe acque bianche di segheria e acque oleose e rumorose di motoscafi, alle scafi e navi ci sono. In più c'è in tutto il mare una pesca senza limite, e quindi se scompare la preda, scompare il predatore. Alaccia al largo di Lampedusa non ce n'è più, e i tunni che mangiano. Poi nasce gabbia allevamento che ci runano a mangiare, e ci sono tutti sti pesci azzurri congelati, e quindi un solo a forza di rarci a mangiare tonnellate al giorno di tutti sti pesci scompaiono, ma in più il residuo oleoso di tutti sti pesci triturati in concime inquina il mare. Eppure non riesco a farmi persuaso. Una volta erano tutti pesci grossi, oggi invece si vedono solo tonni piccoli. Ma secondo mia sa va a trattare re pesci abitativi nati e cresciuti qui nel Mediterraneo e che nel periodo dell'amore tornano nelle acque dove sono nate, quasi che lo sanno e l'uricino i tunni, cana scive e ca voglio morire. Come a mia, che con quest'ultima tonnara mi ritiro. Mi sto nel mio giardino a seminare aglio. Buonanotte, buona soite e buona tonnara. Parola del rice. Esco. Decido di andare a visitare la vecchia tonnara di Trapani, quella di San Giuliano. Si trova sulla litoranea, in riva al mare. Da qualche anno vicino hanno fatto un centro commerciale, Grande Migliore si chiama. Che tu pensi, un solo è grande, pure migliore? Quale fosse meglio di lui, grande o migliore? Grande Migliore si chiama. Per arrivare con la macchina alla tonnara che sta dietro il centro commerciale, sulla scogliera, sulla strada alta, c'è un cancello. Allora mi avvicino a questo cancello e vedo che un signore dentro una vecchia Renault 4, grigio, un pescatore, sta aspettando. Gli chiedo come posso fare per entrare in tonnara e lui mi dice di suonare al citofono del cancello. Scendo dalla macchina e faccio così. Sul citofono c'è scritto grande migliore, naturalmente tutto in lettere maiuscole. Suono, dico che devo andare in tonnara e il cancello automatico si apre. Attraverso la strada che porta alla tonnara, la strada sferrata, e anche il vecchio pescatore della Renault grigia entra, e anche un ragazzo con un motorino entra. La strada che porta alla tonnara ai lati è tutta piena di lavatrici, frigoriferi e televisori distrutti, buttati lì come discarica, mentre dall'altro lato sempre della strada ci sono i magazzini del centro commerciale pieni di lavatrici e frigoriferi nuovi. Entro dentro la tonnara e c'è silenzio. C'è rovina, tutto è distrutto, cantuna e poi verazza a tutte banne. La chiesa di San Giuliano Martire dalle armi bianche è completamente distrutta, il tetto è andato giù tutto che quasi non si vede più la parete frontale, l'unica rimasta ancora in piedi dove non sta però più raffigurato San Giuliano dalle armi bianche. Cerco il molo dove da bambini andavamo a ghettare Capozzuna e facevamo i tuffi e facevamo a Tonnina che spara, e faccio tutto il giro della tonnara costeggiando il mare e vedo che anche il ragazzo del motorino si aggira pure lui per la tonnara, mentre il vecchio pescatore si trova dall'altro lato sulla spiaggettina. Lì accanto alla tonnara, su questa spiaggettina, tiene una barchetta e mi dice che si sta preparando per andare a pescare con le nasse, pesca murene e polpi. Poi quando gli chiedo e gli faccio altre domande, comincia a diventare diffidente, mi guarda e mi dice: «Ma c'è che l'amici tuoi tu?» Io non capisco e non rispondo, allora lo saluto e entro di nuovo dentro la tonnara. Attraverso il capannone degli appiccatoi e mentre cammino dall'altro lato del capannone, entra il ragazzo del motorino. Lo guardo. Lui mi guarda pure e continuiamo a camminare l'uno in fronte all'altro. Ha una polo rosa e dei jeans fucsia tagliati all'altezza delle ginocchia e un marsupio marrone in pelle a tracollo. Io mi guardo in giro, guardo il capannone e poi di nuovo quel ragazzo. Lo guardo, lui mi guarda, ci incrociamo. E rimaniamo a guardarci per un interminabile secondo. Non capisco, ho un po' paura, capisco. Lui mi guarda e mi fa: «Che c'è? Che si fa?» «Niente», rispondo. Proseguo dritto, me lo lascio alle spalle e da dietro sento di nuovo la sua voce che mi dice: «Lo vuoi fatto un pompino?» «No, grazie», rispondo. E mi aggiro un po' per la tonnara, guardo la macchina parcheggiata, il motorino non c'è più, se n'è andato. Decido che voglio andare via anch'io, metto in moto e vado via. E attraverso con la macchina tutta la strada che costeggia il mare. La strada dove una volta, quando ero piccolo, sentivo l'odore del tonno aspro e delle alghe morte e giocavo a cercare il punto. E mi metto a pensare, e penso, e penso, e penso, e penso, penso, penso che non è più un mare per tonni. E allora mi metto a pensare e penso a Rice Mimmo che non c'è più nel suo giardino, con le sue piante d'aglio piegato sui bulbi di quell'aglio come un vecchio intento a riscoprire la vitalità della giovinezza. Associata a quella pianta senza età. E allora penso che fosse sta storia potesse avere un senso, un significato per me, oppure fosse no, e meno male. E allora penso, e penso che non è più un mare per tonni. E allora, dopo che penso che sta storia potesse avere un senso, l'ultimo insegnamento è: chi ti annoia, fallo. Buonanotte, buona sorte e buona tonnara.